And the Oscar goes to Opencast Alpha. È preparata, eh? Come just leave me with nothing. Like a movie with a cliffhanger ending and no sequel to answer my questions. I'm at the edge of my seat, just waiting. One way, heartbeats coming crazy, coming lazy, count me down. But I'm gonna let you come. I'm gonna let you come to me. And I'm tired singing all these songs about my eyes catching yours. Just watch you. Barbara Streisand, anch'io ascolto Opencast Alpha. E cos'è che gli puoi dire a uno così? Cioè, nel senso, al signor Barbara Streisand, cioè, dopo che abbiamo vinto l'Oscar, è solo invidia la sua. Eh sì, devo dire la verità, non me lo aspettavo. Che fosse invidioso? No, dell'Oscar. Fosse invidioso. Opencast Alpha, puntata numero 44. Tipo, come i gatti. Siamo alla 44. 44, come i gatti. Come i 44 gatti? No, i gatti. Ah, i gatti in generale. Una puntata così, diciamo. È una puntata fatta per ringraziarvi. Di cosa? Per l'Oscar. Ah, per averci vinto l'Oscar. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Devo dire la verità, volevo ringraziare anche il panettiere, il salumaio, la mortadellara e il pescivendolo, ma non ho avuto tempo. Ma non l'hai vinto tu l'Oscar? Come no? Eh no, non te l'ha detto nessuno. Ma scusa, non l'hai vinto. Sentito all'inizio? No, non l'hai vinto. Oscar, no. Ghost. No, era tutta una finta. Come una finta. Era una finta per tenerti qua, sul posto. Va bene. Io me ne vado. Meno male. Oh, possiamo cominciare adesso, che ci siamo liberati di un peso. No, vabbè, dai, scherzo, sono qui. È sempre così. Vabbè, andiamo avanti. Allora, abbiamo qualche notizia da darvi, anche se probabilmente le sapete già tutte, perché... Se non le sapete, fate finta, fate la faccia stupita. Ora! Visto? Questa era la faccia stupita. Va bene. Abbiamo una bellissima base in questa puntata, che ci riporta un po', diciamo, a dei ricordi di quando... Eravamo giovani. Di quando eravamo giovani e per questi studi passavano personaggi tipo Boris. Che, di dov'è che era Boris? Boris era di Romagna. Romagna. Romagna, lui di Rimini proprio. Rimini. Avrei proprio detto centro. Romania. No. Vabbè, Boris comunque. Di Romagna. Rimini Est, penso. Come? Rimini Est. Ma non troppo, perché poi l'acqua a un certo punto. Va bene. Prima notizia della puntata. La vogliamo dare? E se vuoi. La diamo? Siamo in tanti stasera qui. Devo dire la verità, sì. Oggi abbiamo una grande rientri, diciamo, il nostro buon amico. Colui il quale che non vuole farsi nominare. Illo. Se no, la prossima volta non ci sono più. Esatto. Pirla. Vai pure, è tutta tua la scena. Ok, allora, VirtualBox 4.3.8. Caspita, e che differenza c'è da quella che ho installato io, la 4.3.7? Beh, guarda, abbiamo fatto dei passi avanti che, guarda, cioè, tu, capisci? Cioè, tu e chi? Io e VirtualBox. Ok. Allora, tu hai fatto passi avanti? Sì, del tipo che sono riuscito a installarla. Di mente. No, sono riuscito a installarla, perché c'è il link. E già è un passo avanti. Vabbè. Comunque... Ma l'hai dovuto compilare? No, questa... sì, per forza, perché... cioè, è appena uscita, come minimo è da compilare, eh? Non okay, è ancora sì. Nei pacchetti. No. Notizie importantissime di questa versione ricca di fix bug e cagate varie, perché si vede che nella versione .7 i bug si muovevano, invece esatto. Adesso li hanno fissati. Esatto. Smettila. Con gli spillini. E poi li hanno messi diciamo che... l'alcol. Allora, la cosa più utile è il supporto per le CPU hot swap. Oh, quindi posso togliere la CPU al mio computer, sì. E VirtualBox continua a girare. Il problema è che se hai un computer, non so, dual core, o gira VirtualBox o girano altre cose, solo con processore fisico, cosa fai? Lo stacchi? Non lo so, non mi è chiaro la situazione. Comunque abbiamo qui qualcuno che è più esperto in processori hot swap. Lei che è esperto. Sì, mi è capitato di avere questa simpatica dimostrazione da parte di un collega che mi ha fatto vedere una grossa scatola colorata che mi ha detto che essere un mainframe. Addirittura. E ha staccato una delle schede con sulle CPU e ha detto, vedi, è ancora accesa. E siccome non è venuto nessuno a picchiarlo, suppongo anche che funziona. C'era un secondo larga... me era ci fatto vedere un frame spento. Può essere, con delle luci finte che lampeggiavano. Esatto. Vabbè, comunque. Però le luci hanno continuato a lampeggiare. Sì, c'era un Arduino che faceva scendere spegni. E comunque, di al tuo amico che potrà installare la nuova versione. Tranquillo, che il nuovo sistema supporterà appieno le sue CPU swap. C'è solo un dettaglio. VirtualBox gira sui VAX. Non credo. Sospettavo. Che voi. Cioè, ma io pensavo si intendesse le CPU virtuali. Invece no, proprio no. Quelle fisiche. Le CPU virtuali, volendo, nel senso. No, ma nel senso che le posso cambiare al volo virtuali. No. Non capisco. Devo andare a approfondire. Puoi simulare di bruciare la CPU? Non hai abbastanza soldi per approfondire. E comunque hanno migliorato anche la versione per macOS e per Windows. Se proprio vi dovete fare del male. Ma non so. Perché la cosa più bella è installare VirtualBox su Windows e virtualizzarli su Windows. No, io penso che potremmo prendere VirtualBox su Windows e virtualizzare sopra macOS, installargli VirtualBox e virtualizzargli sopra Linux. Sì, la versione è una cosa più bella. È quasi come quella volta che ho lanciato Box, non so chi se lo ricorda, un vecchio emulatore di PC, Box. mi guardano tutti con lo sguardo spento, è incredibile. Che non è scritto con la X, giusto? No, col CHS, box. L'avevo fatto girare la versione per Windows su Linux in Wine e ci avevo fatto girare su Linux. È bello, funzionava. E ti chiamavi scemo da solo, vero? E non c'avevo niente da fare. sto giovane. Mi rispondevo anche. Comunque, se volete provarla, provatela. Se non volete provarla, no, chi se ne frega. Ma chi se ne frega, tanto, nel senso, vi avvisiamo noi se esce qualcosa di decente. Comunque, se proprio volete provare una virtualizzazione, KVM. Se il processore ve lo supporta. Cambiate processore, se no, mamma mia, ma se siete... Per dire. Cioè... ma il mio non è AutoSwap, non lo posso cambiare così. Ma lo spegni? Ma il mio funziona ancora perfettamente, non lo devo cambiare. E sei te che non funzioni tutta, non è il processore. No, vabbè, però se vuoi farci girare KVM... No, devo dire la verità... A quel punto non funziona più. KVM ha il suo perché. Perché? Mizzica sa il suo perché. Io aspetto che facciano un driver, qualcosa, per dare un accesso accelerato alla scheda video a un sistema guest su KVM. Allora, ci sono dei lavori in corso, ma non è facile. Lo so, ma non lo devo fare io. Infatti sto aspettando che lo facciano. È una vita difficile questa, devo dire la verità. Lo so. Cioè, è come un si bemolle, per esempio. Va bene, e su questo direi che, intanto che ci prepariamo con la seconda notizia della puntata, facciamo uno stacchettino musicale. Ma chi erano quelli di prima? Allora, prima vi abbiamo fatto, non erano brutti. Chi erano? È uno solo, per cui da chi solo era uno da solo, suonava tutto contemporaneamente, one man band. Esatto. Si chiama Octopus. No. Octopus. Va bene. Per via della birra. È tedesco? Esatto. Si chiamava Michael McHickern. McHickern. Era meglio Octopus. Michael McHickern. Michael, per gli amici. Siccome siamo amici, Michael. Mike. Mike. Con il brano One Way Herbeats. Airbag. Airbeats. Airbeats. Vabbè, quella roba lì. Invece il prossimo brano è un gruppo. Ma da dove arriva? Da dove questo arriva? È americano. Questo è americano. No, ho capito, ma da dove l'abbiamo rubata? Tremendo. Come tutti i pezzi che vi facciamo ascoltare, quasi tutti i pezzi che vi facciamo ascoltare sono disponibili su Jamendo in licenze Creative Commons varie e disparate. Sparate. Comunque poi trovate tutte sul sito www.gl-como.it, sulla pagina dedicata a questa puntata di Opencast, tutti i link alle canzoni, alle notizie e alle licenze delle canzoni se volete riutilizzarle. E già che ci siamo, diciamo anche che ci devono seguire sul nostro Friendica. Per esempio, su social social.gl-como.it abbiamo un profilo del gruppo Linux e ci scriviamo le cose che faremo, che facciamo. Invece adesso vi facciamo ascoltare We Are FM con My World, un pezzo di quelli sono proprio belli, di quelli possenti. Questo ti piace, belli. Io so che questo ti piace. Così che parte proprio cattivo. Vai. Che sai fosse più cattivo. whatever they believe. You never judge someone. Nobody needs to tell you what is right or wrong. They don't need to tell you anything. Welcome to my world. Welcome to my world. If you can't say they all can't just do what they want. Whatever they believe, you never judge someone. Nobody needs to tell you what is right or wrong. They don't need to tell you anything. Welcome to my world. Ciao, sono Angelina Giolitti e anche io ascolto Opencast Alpha. Sì, ma Angelina, abbiamo capito che anche tu ascolti Opencast Alpha. Ma potresti venirci a trovare? Sì. Per esempio? Al posto di... Di? Lui. Di lui. Non so, Tullio, stasera sei così, optional. Siete però hai bastardi. Fatto degli hamburger buoni, quello bisogna dirlo, per cui ti terremo per no, fare gli hamburger. Venite qui, mangiate, poi andate a registrare da un'altra parte, non è un problema. Va bene, si può fare. Bastardi! Va bene, arriviamo a un angolo un pochino più tecnico. Partiamo con le brutte notizie. La brutta notizia della serata, aspetta che ci vuole la musica della brutta notizia della serata. È uguale a quella di prima più o meno, però va bene così. Abbassate un po' le luci. No, sì. Ma la settimana scorsa era uscita la notizia che le librerie SSL di macOS avevano un bug per cui non venivano effettivamente controllati i certificati. Che è già bello. Che è già bello. C'era un if di troppo. If uguale a zero. Sì. If 1 uguale a 0 controlla, sì. Controlla il certificato. C'era un go to fail di troppo che mandava sempre al caso fail. Lì diciamo che un po' l'insegnamento da portare a casa è mettete le parentesi graffe anche se il if ha soltanto una riga, come perché sì. Va bene, puoi continuare. E comunque un po' di gente era tutta sì, ma è successo a loro, per noi non è un problema. Hanno fatto così. La settimana dopo esce la notizia che in GNU TLS c'è un bug per cui non veniva fatta la verifica dei certificati. Oh, e questo invece si è sentito. Ancora, erano quelli di Apple. Sì. E dall'altra parte si sente una risatina più tipo e sono quelli dell'NSA. No, pensavo fossero quelli di OpenSSL. Ecco, OpenSSL ancora non ha trovato niente. Si però crede si aspetta, che ma non è facendo detto. Anche loro. Secondo me hanno visto il primo, hanno cominciato ragazzi, a avere... hanno non ditelo. Esatto. Hanno visto il secondo, secondo me è da tenere d'occhio adesso i le prossime versioni, le varie modifiche, fare dei che diff, fanno. Vedere. Perché secondo me stanno controllando, visto l'andazzo. Sì, effettivamente, anche perché non è ben chiaro se fossero effettivamente dei bug, se fossero feature per qualcuno. Diciamo che nel commento però... c'era scritto NSA. No. Io ho letto un'analisi del problema e il problema di fondo sono diciamo lo stile di scrittura di tutta la libreria, che è a cazzo. Alla cazzo. Alcune anch'io! Sì. Anch'io di solito uso questa tecnica. Esatto, sì, perché sì, alcune sì, funzioni ritornano 0 se è andato buon fine e meno 1 se non è andato buon fine. Alcune ritornano 0 se è andato buon fine e sopra 0 se non è andato buon fine. Altre funzioni ritornano 0 se non è andato buon fine e 1 se è andato... inverso, il contrario di quello, dipende da come gli gira. Sì. A quanto pare il problema è stato introdotto durante un teorico miglioramento del codice. Chi ha scritto non si è reso conto che quella funzione funzionava in una maniera invece che nell'altra. Sì, effettivamente veniva la domanda è però come mai nessuno se ne è accorto. Perché tutti installavano, esatto, tutti installavano le cose e hai visto funziona. Guarda, mi accetta il certificato. Vabbè, ma adesso io non ho guardato il codice, ma un test. Per dire. Così. Così. Vabbè. Quindi cosa possiamo fare noi, umili utenti? Dovrebbero essere umidi usciti utenti, gli aggiornamenti per la maggior parte delle distribuzioni, quindi chi non usa Gentoo scarica l'aggiornamento dalla sua distribuzione e si trova la versione... E chi dirò, ieri ho aggiornato la mia bella Debian Stable e c'era giusto il pacchettino di... TLS. Esatto. Vabbè, ma anche nella mia c'era l'aggiornamento. La tua Debian. Ma anche la mia Gentoo. Sei sicuro? Oh. Quanto tempo hai impiegato a ricompilare tutto? Ma non è tantissimo, eh. Non si tira dietro tutto, eh. Ci sono un po' di programmi che usano. Sì, vabbè, ma... Perché col fatto che OpenSSL ha una licenza BSD non compatibile con la GPL, molti programmi sotto GPL devono usare con, no vabbè, ma sul mio sistema non tantissimi, visto che nel senso c'è installato ancora poco, cioè non c'è niente fondamentalmente perché non riesce a compilare quello che vorrebbe installare. Va bene, seconda notizia tecnica della puntata. Seconda notizia tecnica della serata: è stato portato Debian su una nuova architettura. Caspita, proviamola. Si chiama OpenRISC, che ha un processore di cui si possono avere i sorgenti. Esistono gli schemi in Verilog, per cui è possibile, se uno ha la possibilità di farsi la sua CPU. Esatto, se ha una linea di produzione, esatto, a casa. Scusa, ma se io la faccio in scala, non so, con i transistor... 10.000 a 1, per cui diventa grosso. Dei transistor grossi. Esatto, nel senso riesco a saldarli col mano, saldatore. Esatto. Beh, c'è gente che si è fatto una CPU con componenti discreti, ma non è questo il caso. In realtà OpenRISC... Mi sembra discretamente una pistolata, comunque. C'è anche una possibilità un pochino più economica, che è quella di usare un FPGA, che sono sostanzialmente delle CPU programmabili. Che storia. Esatto. Costano solo 200 euro. Beh, costa meno che una linea di produzione. Certo, okay. Esatto. Da quel punto di vista è per un bel risparmio. Se volete installarvi una Debian su OpenRISC, c'è un'altra possibilità. Sai cosa puoi fare? Puoi scaricare il nuovo VirtualBox. Visto? Che c'ha il processore hot swap e fargli credere di essere solo OpenRISC. E ci metti lo swap apposta. No, allora... Ci sono ben due possibilità: o vi installate QEMU con l'emulazione per OpenRISC, visto, oppure senza bisogno di installare niente, tramite browser c'è un sito con un emulatore di CPU OpenRISC in JavaScript, con tanto di possibilità di scaricare immagine da 4 o 8 meg con un sistema Linux minimale e kernel compilato per OpenRISC. Tu pensa. Allora. Cioè, e fa anche il boot. Quindi si può provarlo direttamente online. Dal JavaScript. Quindi la notizia è stato portato Debian su un sistema che fondamentalmente non esiste. Sì, vabbè, cioè esiste, ma chi ma cazzo... Ma vi ricordo i primi sistemi a 64 bit. Sì, è l'idea un po' quella. Per cui aspettiamo che arrivi un'ondata di processori OpenRISC. In realtà... Ma ha qualcosa di positivo questo sistema OpenRISC? A parte il fatto che l'ovvio di essere... è gratis open. In realtà incominciano a esistere delle CPU OpenRISC in giro per il mondo. Ma loro non lo sanno. No, lo sanno come. Lo pubblicizzano. c'è un, addirittura la NASA pare che abbia usato un CPU con RISC, non ho capito esattamente per cosa. Apollo 11, questo... la pompa di scarico. Apollo 13, qual era? Era Apollo 11. Una delle notizie è che, per esempio, un processore Open RISC è stato usato all'interno di un processore A31 della Allwinner per gestire l'accensione e lo spegnimento della CPU. Accenditi. Cioè hanno messo un processore per controllare l'accensione e lo spegnimento del processore. Sembra una cosa strana, perché ma... io sborono. No, e perché... quando sborono... metto una macchina che controlla un'altra macchina. È arrivato e gli ha detto: so che ti piacciono i processori, ho messo un processore nel tuo processore per controllare il processore. E poi hanno messo un altro processore per controllare l'open RISC. Eh sì, a questo punto penso di sì, perché soprattutto se l'open RISC accende l'altra CPU, chi è che accende l'open RISC? Accende l'open RISC? Esatto. E sono open RISC avanti a USA. È un RISC, è un RISC, queste cose sono sempre un RISC. È un RISC, è un RISC. Ma tornando a questo, questo argomento mi interessa, cioè io mi chiedo dallo scotch. Cioè che praticamente, cioè che vantaggi ha come architettura? Nel senso, si parla tanto di ARM ultimamente perché è un processore che consuma nulla, consuma poco rispetto a quello che fa. Ecco, appunto. Allora, in realtà fondamentalmente ha vantaggi più politici barra di progettazione. Fondamentalmente, siccome per fare un processore ARM devi pagare delle licenze, esatto, per fare un processore Open RISC, no. Quindi chi lo fa lo fa sostanzialmente per non pagare le licenze. Processore comunque è un processore decente, non certo all'altezza di processori più blasonati come l'ARM o anche solo il MIPS, però ha tutto quello di cui si aspetta da un processore canonico, ha anche delle estensioni opzionali per il virgola mobile o le operazioni in parallelo. Okay. Ho avuto un piccolo momento di offuscamento cerebrale. Anche a me capita spesso. Negli ultimi 15 anni. Ma anche tu sul anni. Parallelo. Che 12 sì. anni tutti sì, buoni. Va bene, quindi vedremo un po' come, come andrà sì, la situazione. Diciamo che la parola open all'inizio mi faceva pensare molto, al piace. Stavi già marketing a manetta e farmi un, delle la mutande man- con scritto open, open. Col circuito. Col circuito. Rischio aperto vuol dire open rischio. Dietro. No. Davanti. Open e davanti rischio. O viceversa. Siete dei scemi proprio. E vabbè, e la vita continua. Abbiamo altre notizie tecniche in programma? Così, io sinceramente ho perso un po' il filo della scaletta. Avevamo una scaletta? Sì, era chiocciola, il problema è che era chiocciola. Cioè, ma almeno fai finta. Sì, avevamo altre notizie tecniche. Ma abbiamo perso il foglio. Adesso lo stiamo recuperando. Sì, sì. La, cosa si fa nella spazzatura? C'era un perché. No, vai. Guarda, lì se lo si vede ancora nella spazzatura. La Broadcom ha rilasciato i sorgenti di un chip grafico che non è quello del Raspberry, però ci assomiglia. Si chiama Rasb. Vi ricordiamo che il Raspberry, la famosa schedina, quella con ARM, appunto, a basso sì. costo, è prodotta, se non sbaglio, o comunque co-sviluppata dal Broadcom, c'è cioè di mezzo la Broadcom per qualcosa. Usa un system on chip Broadcom e credo che Broadcom abbia anche finanziato parte dello sviluppo o qualcosa del genere. Esatto. E il comparto grafico è un chip della Broadcom, il, appunto. Sì, tutto il sistema on chip della Broadcom e il comparto grafico è famigerato per non essere molto amichevole nei confronti del software libero, usare un eufemismo. Ci vuole un bel binarione per farlo funzionare. Ci vuole un bel binario, il chip grafico è quello che fa partire il processore ARM, anziché esserci un processore open RISC. Cioè, devo capirle. Questo blob binario è necessario. Necessario per la partenza. E ci sono progetti per reverse engineering e quant'altro, ma hanno visto facile. Che hanno tanto lavoro da fare. Non è semplicemente un chip grafico. È un chip che fa tutto. Fa tutto, e in particolare... Diciamo, devo dire la verità. La notizia è che appunto hanno rilasciato i driver per un altro modello. Però sono esatto. Tutti contenti. Dici, ma è quello che usi? No. Sarebbe bello fare delle schedine con dei chip liberi, ma sarebbe bello, diciamo. Sarebbe molto bello. Siamo arrivati a un certo punto della nostra scaletta. Io andrei con un'altra pausa musicale e poi torniamo magari con... Abbiamo il sostituto dell'uomo di DistroWatch, è qui seduto a fianco a me. È carico? Sei carico? Son carico come una Duracell. Bravissimo, veramente. Noi vi lasciamo con un pezzo degli Emerald Park, Modular Home, la casa modulare. Ti piace come idea? No, non lo so. Una roulotte in poche parole. Sì, no, più roulotte, una attaccata all'altra. Va bene, ci sentiamo fra un 3 minuti e un 27 secondi. Tanto no, così la gente manda avanti. Circa. Esatto. Mistero è come mai il governo italiano ha ordinato la chiusura di 47 siti internet che facevano streaming di film e materiale protetto da copyright. Gomblotto, e quindi questi siti purtroppo quindi non sono più visibilità dal territorio italiano, per cui se hai un indirizzo IP all'estero, per esempio, in Guatemala no, in America no, in Svizzera. Per esempio, se io dovessi prendere un pullman, sì, e arrivare fino alla vicina Svizzera, perché non avendo la vignetta io vado col pullman a piedi. E una volta recatomi lì tramite il Uber, riesco ad avere una password della wireless. Io posso da lì vedere i siti. Non ho capito perché parli bergamasco, però. Allora, non è che so fare anche lo svizzero. Non so fare l'italiano, so fare lo svizzero. È quello te. Il punto. Cioè, resta all'interno delle tue competenze. Allora, se io vado a cucinare. Se usi un un server DNS italiano, sì. Se usi un server DNS svizzero, no. Riesci comunque a vedere. Cioè, quello che hanno fatto è bloccare sull'elenco dei siti raggiungibili tramite i DNS italiani l'elenco di questi. C'è lo spacciatore che vende qualcosa di illegale e allora l'hanno tolto dall'elenco telefonico. Per dire. Però la cosa divertente è che hanno fatto un elenco telefonico di tutti quelli che hanno tolto dall'elenco telefonico. Per cui se tu sei a Chiasso, dove non hai questo blocco telefonico, puoi avere direttamente i numeri di telefono raccolti comodamente in una pagina gialla. Ma io ho visto un'altra cosa invece, proprio la paginetta del PDF con i nomi, i domini bloccati, con a fianco la colonna degli IP. Cambi l'IP. Oppure l'inserisci nel file host. Non diciamo esattamente come fare. Non si può fare, quindi non si può fare. Cioè, non si può, però allora, si può fare. Allora, facciamo una cosa. Voi italiani, via adesso. Via. Che rimangino solo gli svizzeri. Rimangino qui. Ciao, sono Uber. Ecco, allora, già che ci sei, allora, a me interesserebbe per i Moretti. Stavo dicendo, no? Perché sono dei dolci che a me piacciono. Ma io sono... Si potrebbero fare con dentro... Perché ci sono... Il latte. Degli altri cioccolatini. No, degli altri cioccolatini che hanno dentro un whisky, un liquore, che non sono male. Potremmo avere una versione di Moretti con dentro il liquore? No, perché il liquore in Svizzera non lo facciamo. Vabbè, allora fai una cosa, vai via, basta. Non ti voglio più. Tornate italiani, dai. Ok, va bene. Allora, sono cose che non si possono fare, quindi non vi spiegheremo come fare, non vi spiegheremo come cambiare i DNS della vostra macchina. Tecnicamente, censura.bot.it/tecnologie.html. C'è un sito, no. Osservatorio Censura, dove raccoglie appunto questi trucchetti per categorie, perché? I siti che sono stati bloccati, per cui c'era state cercando... per categorie? Sì, ad esempio se cercate le pagine gialle, uguale. Film per tutti e streamhero.net. Ecco, ma adesso non andiamo proprio, però questi sono dati disponibili pubblicamente. Non dare gli indirizzi IP. Ma questo aveva pagato, quindi, cioè ci sono stati venditori di orologi, non so perché. Venditori di orologi. Sì. Anche di scarpe. Sì. E il file locker. Studio legale. Le riviste. Portale di link. Venditori di occhiali. Ma avete finito? Questo non lo diciamo però, No. Quindi dico. File locker. Interessante, va bene. La cosa brutta è che la vedevano loro, ma noi no. Non è giusta questa cosa. Perché sei dovremmo avere un monitor grosso. Puoi andare anche tu sul sito che hai detto prima. Le pastiglie blu, esatto. Asteroidi. Va bene. Asteroidi. Tornando invece sull'argomento tecnologia open source, diamo notizia di una delle varie raccolte fondi volontarie che ci sono in azione in questo momento. In corso c'è PTV, che è un programma di editing video già esistente, che sta facendo una raccolta fondi per finanziare lo sviluppo successivo, arrivare alla versione 1.0. Quindi sono estremamente instabili ancora? No, diciamo che uno degli editor video con target l'utente medio-basso, cioè quello che vuole montarsi i filmini delle vacanze fondamentalmente. E quelli che io... È nel uno, senso... Sì, per... quelli anche. Ah. No, perché non ho... Sì, sì, non so vai se... tranquillo, si può fare. Perché c'è la... No, puoi farlo. Puoi anche regolare il colore. No, perché... Ma ho dei video è uno della, dei migliori comunque della mia sì, capisci? Dopo ne parliamo dopo avvicina sì. Parliamo dopo okay. Ma c'è il tasto, c'è, nascondimi la faccia, sì, c'è. Puoi farlo, okay. Cioè, puoi farlo. Ah, ok, diciamo che a livello medio basso stavo dicendo è uno dei migliori al momento. Penso che sia ormai arrivato a sorpassare anche il più famoso KDN Live. Scusa, ma il tasto è là, c'è un pin. No, quello non c'è, mi spiace. Lì sono effetti speciali troppo complessi. Però se partecipi alla raccolta fondi, più dai alla raccolta fondi, più voti hai per finanziare che feature sviluppare nella seconda parte. Allora, lì, aspetta. Se ti servono delle feature, c'è un elenco di feature tra cui scegliere, tra cui quella non c'è, però posso chiedere, nel senso, se do dei soldi, posso chiedere che venga inserita anche la mia feature che mi interessa a me. Però puoi anche andare da un chirurgo e dargli dei soldi a lui direttamente. Ah, per esempio. La storia della chirurgia plastica, io non ci credo. È un interessante progetto perché nel mondo open source gli editor video sono veramente carenti. Mentre se parliamo di audio ci sono dei progetti come Ardo che fanno delle cose molto belle, funzionano molto bene. Che noi non abbiamo mai usato. No, se per qualcosa è stato usato. Mentre invece sul livello video i progetti sono quasi sempre quelli, quasi sempre tutti fermi, e quelli poi ne nascono di nuovi che però ovviamente sono nuovi e non vanno avanti. A livello diciamo professionale c'era il famoso Cinellera che è fermo da anni. Bene. Di cui era stato fatto un fork Lumiera che è in sviluppo da anni. Al momento c'è un'interfaccia grafica che non funziona e basta. Beh, però c'è qualcosa. Qualcosa ogni tanto fanno, ma è molto lento anche quello. E si sta aspettando ancora il famoso Lightworks, ne avevamo già parlato più volte. Sì. È arrivata la versione per Linux, non si sperava. Non è ancora open source, ma è arrivata la versione per Linux. Al momento gira solo su Ubuntu e derivate a 64 bit. Ecco perché ha installato il sistema a 64 bit. Ma non è uno derivato di Ubuntu, non funziona. Mi spiace. E per cui la situazione è così, è un po' grama. Se vogliamo dare una mano per migliorare un po' il panorama degli editor video, io ho dei video da testare. Te, in qua, tra un occhio destro e l'occhio sinistro. Va bene, siamo giunti all'angolo che tutti quanti stavano aspettando. C'è gente che ci ascolta solo per questo e salta direttamente alla fine. Dovremmo segnare sul Vorresti sito dire... a che minutaggio comincia no, e poi anche il minuto a cui finisce, così esatto, si così può poi saltare esatto, invece esatto. Purtroppo per motivi tecnici non abbiamo la solita sigletta, per cui niente, la facciamo così al a bocca. Volo. Vai con la sigletta. Non era questo. No, ma vai pure avanti. Ma non era questo. No, era quello che c'era. Ora in onda l'angolo di DistroWatch. Conduce in studio Illo. Allora, partiamo con la nostra classifica delle distribuzioni più cliccate, più chiacchierate. Mi piace, distribuzioni più cliccate. Sembriamo quasi una top 10 vera. Esatto. Decimo posto o no? Okay, no, partiamo dal decimo posto. Partiamo dal fidati. Decimo posto, chi se ne frega. Allora, sul decimo posto troviamo Elementari con 926. Elementary OS è quello famoso che hanno disegnato, che c'è dentro, che la prossima versione si chiamerà Medie OS e poi Superiori OS e poi Università. Colpiscilo. Lo ascolto anche, capito? Io mi chiedo perché cioè questi errori li facevi con me all'inizio, poi hai smesso. All'anno posto troviamo Mangiaro. Mangiaro anche bene, direi. Adesso digereremo. Maniero, si chiama? Magnaro. Che è stabile. Abbastanza stabile. Poco sopra, con 999 cliccate, troviamo Arc Linux. Xbox. Purtroppo è in discesa. In discesa, so che ti... Ma in discesa anche ancora, è ancora più peggiore. C'è, però al settimo posto c'è PC Linux OS. Che mi sembra. Mi chiedo perché. PC Linux OS è distribuzione basata su Fedora. RPM, su Fedora. Fedora, sì, sì, sì, sì. C'è chi ne parla bene. Mai ma provato. Sì, ma sale al sesto posto? Chissà perché. È sopra PC OS. C'è cioè OpenSUSE. Chissà per come. OpenSUSE. E sopra la 6 abbiamo finalmente la 5, la 5. La 6 abbiamo la capra campa e non era così, che è la nuova versione di Fedora, che Fedora è la capra campa. Dopo Schrödinger's Cat, dopo il no, vabbè, vai avanti. Vabbè, quel che era, finalmente una distribuzione seria alla numero 5, con tutto rispetto per le altre. Sì, va bene. Al numero 4 troviamo un'altra distribuzione. No, questa è di serissima. La Mageia, ex Mandrava, ex Mandrivia, ex Mandreva, ex Mandrake. Mandrake ed ex. Vabbè, insomma, Mageia. E al numero 3 cosa troviamo? Al numero 3 troviamo la Grande Vecchia. La Grande Vecchia, quindi Debian. Debian che il guadagna punti. Il sistema operativo definitivo. Universale per tutti e per qualunque altra cosa. Alla numero 2 abbiamo, sempre in salita ma sempre stabile, la numero 2 ormai da parecchi mesi, la nostra Ubuntu. Esatto. Beh, adesso sta per uscire la 14.04. E quindi mi sa che dovremo salire ancora di più. Eh sì. Attenzione, gingolino per il primo posto. Aspetta, perché comunque anche se salirà ne avrà di strada da fare, perché al doppio di click c'è la mitica... No, non è la Gentoo, no, è la Mint. Che questo ha... è il jingle del primo... Sembra che è morto qualcuno. Esatto. Allora, non è che lo so fare. Quindi al primo posto la Mint con uno tracarico di click. Si quasi fa... 4.000 rispetto a quasi 2.000, quindi il doppio, esatto, di click rispetto a Ubuntu. Cliccamo... Ma andiamo a cercare, vabbè, quello che tutti stanno aspettando realmente. Saluti al 14° posto la Zorin. Non proprio. Saluti a tutti, ci vediamo la prossima puntata. Al 17° posto la Kali. Mi raccomando, non vi divertite troppo. La Slackware che punto è a proposito di Grandi Vecchi? Il 18° posto. 18° posto. Non avevamo finito. Poi c'era il 20° l'Open Mandravia. Ragazzi, io devo andare a dormire. La Light. Si è fatta una certa. In Core Light che sono al 31° e al 31° posto. La Ghost che è un fantasma, non si vede più al 33°. C'è in giro Pappi. La Talis che era... Sì, da qualche parte c'è. Un buonissimo whisky. E Acnopix al 38°. Pensate, la Acnopix, quanto tempo è che non fate più partire una Acnopix? Diciamoci quando, la verità, da quando si è rotto il PC, più o meno. Esatto. E al 39° posto, da quando avevo installato Gentoo, non andavo un cavolo. Esatto. Ho usato una Acnopix per recuperare il sistema. Io mi chiedo perché, ma io sono passata alle Debian Live già da un po', quando si rompe il PC. Mi chiedo perché. Comunque la Gentoo, finalmente la nostra bellissima Gentoo è al 39° posto. Però ma volevo farvi notare questa corona, scritto Corora. Va bene. Comunque anche Watt OS, che è la distribuzione che consuma poco. Acqua. Ah, ci... Esatto. Che serve per compensare Gentoo, che invece consuma di più compilando. Esattamente. Pensa, c'è ancora Mandriva in classifica. Sì, ma Mandriva era solo... No, è qui 55. E al numero 69 abbiamo la G-Parted. G-Parted al numero 69. Preciso. Perché adesso sta diventando non più libera. Sì, è vero. Come? La distro, sì. La distro è a pagamento. Sì, sta uscendo, sta per uscire. Attenzione, perché GNU Sense, la distribuzione interamente open, si piazza all'88° posto. Io direi interamente libera, perché sennò gli sviluppatori di GNU Sense si offendono. Guarda, per me possono anche offendersi. Siamo arrivati in fondo a questa puntata di Opencast Alpha. Io ho deciso che non vi invito più, eh. Peccato, perché non era male. Ma diamo 4 numeri da giocare ad uno. 50, 63, 79 e 202. 202 è difficile da giocare. Però giocheremo all'otto. Va bene. Abbiamo qualche ultimo commento, a parte il fatto che al momento non vuole più invitarci a pranzo, ma... Firefox OS, provatelo, è bello, funziona bene, E se sentite qualcuno che dice che i dispositivi sono una ciofeca, tipo la tartaruga ninja, probabilmente la ciofeca ce l'ha in testa quello che lo dice. Sì. Non ha capito qual è il punto, forse. Esatto. Okay. Purtroppo purtroppo per scelta non le fanno girare su telefoni con 8 core e 16 giga di RAM. Grazie al cielo non sprecano 8 core e 16 anche giga di RAM per fare telefonate e mandare SMS. Esatto, considerando che ho 8 core e 16 giga di RAM è più di quanto abbia a disposizione il portatile che in questo momento sta registrando questa puntata di Opencast. Quindi potremmo registrare con un telefono. Quindi. Sì, potremmo registrare con un telefono, fondamentalmente sì. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata che spannometricamente potrebbe presentarsi fra un paio di settimane. Circa. Sempre che vada tutto come dovremmo fare delle prove durante le riunioni. Esatto, probabilmente la prossima puntata sarà un po' più movimentata. Uno speciale registrato durante una delle riunioni del gruppo Linux di Como, che diciamo che supporta, finanzia e conduce, porta avanti e supporta, nutre questo Opencast. Noi vi ricordiamo che il sito dove trovare Opencast è lo stesso del gruppo Linux di Como, ovvero www.gl-como.it. Vi invitiamo a commentare le nostre puntate se volete dirci quanto siamo bravi, quanto siamo belli, quanto siamo simpatici. Mamma, per piacere smettila però, cioè si sgama. Se invece volete mandare soldi, mandateci un'email magari in privato e ci mettiamo d'accordo. Mamma, per piacere smettila, si sgama. Anche quello, un vaglio postale, no, ma per i dettagli del vaglio postale. Se volete mandare insulti e altre cose, l'email è quella di Davide. Papà, per piacere, basta, si sgama, capisci? Davide, cioè, se la mamma mi manda bravo, e tu bu, si capisce, capisci? Va bene, vi lasciamo con un ultimo brano, è un gruppo rock spagnolo. A noi ci piace la musica spagnola open. Ci piace. Soprattutto se rock. Ve lo faccio introdurre da un personaggio che ci accompagna ormai da tempo, visto che almeno mentre noi stiamo registrando l'ora è quella giusta. Ma parla in spagnolo? Non parla in spagnolo, parla italiano, ma è, diciamo che tratta argomenti che sono spagnoleggiati. Universali. Per cui vi lasciamo con questo brano. Entre tu yo track, che non so come si legga perché non so lo spagnolo. Aspetta che si entri sta. Tu io lo traccio. Esatto. Sueño de Dalia sono loro. Il sogno di Dalia. Esatto. Entra tu che io lo traccio. E niente, questo ci facciamo introdurre il brano. Okay. Un brano che tratta la tematica del pene e della vagina, che è un tema sempre attuale. Que su casa.